Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi portiamo all'interno della consulenza aziendale e lo facciamo in un modo assolutamente originale con una puntata ambientata, pensate, agli antipodi. Per chi tra voi avesse un background di studi economici e volesse tentare la sorte in uno dei paesi più lontani dall'Italia, beh, questa è davvero una trasmissione imperdibile. Soprattutto fate bene attenzione, tracceremo anche un paragone con professioni analoghe in Europa con una incursione a Londra. Le sempre preziose indicazioni dell'appuntamento bimensile con Federico Fabiani di Scambi Europei su lavori e tirocini in Europa apriranno la puntata odierna, segnalazioni che proseguiranno nello spazio Job Abroad, dove a farci da Virgilio nell'intricato mondo delle offerte di impiego più calde a livello mondiale sarà Alessio Romeo con il network di Face for Job, e a chiudere Mario Gastaldi vi guiderà verso una meta innovativa qualora vogliate aprire un'impresa al di fuori dell'Italia. Un'attrice di nomi che conoscete ormai bene e che, come ogni settimana, saranno in onda per aiutarvi e fornirvi consigli utilissimi. Valigia pronta e Bermuda, perché stiamo per tuffarci nell'estate australiana, rotta verso Melbourne con Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci trasporta nell'ambito delle certificazioni relative alla formazione all'estero. Dal 2006 ad oggi sono stati emessi in Europa 1 milione di certificati Youth Pass. Si tratta di un certificato rilasciato ai ragazzi che hanno partecipato alle opportunità del programma Erasmus Plus, settore gioventù, attestandone le competenze acquisite e spendibili nel proprio percorso di vita. A comunicarlo, l'Agenzia Nazionale per i Giovani. Tutte le informazioni utili su Youth Pass al sito www.youthpass.eu. Toolbox. Prosegue la collaborazione di Toolbox col portale Scambi Europei, ogni 2 settimane segnalazioni utili e imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Buon pomeriggio, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Allora Federico, per cominciare l'anno ci hai proposto anche oggi una serie di interessantissime opportunità in Europa, ma non solo. Partiamo però proprio dal vecchio continente con te, Federico, perché c'è un'opportunità di stage tirocinio al Comitato delle Regioni. Spiegaci meglio. Sì, il Comitato delle Regioni è un organo consultivo dell'Unione Europea al quale sia il Consiglio che la Commissione hanno l'obbligo di rivolgersi per deliberare su determinate materie che appunto sono di interesse regionale. Attualmente sta offrendo degli stage della durata di 5 mesi presso la propria sede di Bruxelles per la sessione primaverile, che inizierà il 16 febbraio e terminerà il 15 luglio. I requisiti per partecipare sono la laurea entro la data di chiusura del bando, quindi si può anche essere studenti in corso, la conoscenza approfondita di almeno 2 lingue ufficiali dell'Unione Europea, ed è prevista una retribuzione indicativa di 1.195 euro al mese, più il 50% di sconto sui biglietti dei mezzi del trasporto pubblico di Bruxelles, più un'assicurazione sugli infortuni. Da Bruxelles ci trasferiamo in Francia perché c'è un'importante opportunità di stage per aspiranti giornalisti radiofonici. Quale migliore occasione? Noi siamo proprio una radio per raccontare di cosa si tratta. Sì, si tratta appunto di uno stage presso Euradio Nantes, una radio che esiste dal 2007 e che dal 2018 ha aperto anche uno studio a Lille. E quindi è proprio in queste 2 città francesi che questa radio sta promuovendo degli stage per studenti, anche in questo caso, di giornalismo, media, comunicazioni, ma anche scienze politiche o affari europei. La durata di questi stage è di 5 mesi, si inizia il 3 febbraio 2020 fino al 3 luglio. È richiesto un buon livello di francese e ovviamente un interesse sia per il mezzo radiofonico che per le tematiche relative appunto agli affari europei e alla politica internazionale. Dalla Francia ci spostiamo invece in Germania, per la precisione a Berlino, perché per aspiranti professionisti dell'ambito degli affari internazionali c'è una bella opportunità. Quale? Sì, si tratta degli stage della durata di 3 mesi appunto presso l'Istituto Tedesco per gli Affari Internazionali e la Sicurezza, che ha sede a Berlino. Questi sono stage che si rivolgono a studenti in corso nelle lauree magistrali o laureati in triennale che saranno però iscritti a ad una magistrale durante il periodo del tirocinio. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese, buone competenze informatiche con Word, Excel e la navigazione web, un interesse ovviamente per la politica e la comunicazione, ed è previsto un rimborso mensile di 300 euro che può essere integrato con delle borse di studio dell'università inviante. La scadenza per candidarsi è il 31 marzo. E dall'Europa ci spostiamo per chiudere questo spazio in Giappone, perché abbiamo borse di studio per andare a lavorare in uno dei paesi più remoti. Ci spieghi meglio di cosa si tratta? Sì, la Japanese Association of Universities Women offre attualmente le borse di studio per studentesse internazionali per appunto svolgere un periodo di studio e ricerca presso un'università giapponese. Il periodo della borsa è compreso tra i 4 e i 6 mesi e partirà da ottobre 2020. I requisiti sono avere meno di 45 anni, essere in possesso di un diploma di master o superiore ed essere in contatto già con un'università giapponese, per l'appunto. È prevista una retribuzione tra i 500.000 e il milione di yen, che convertiti in euro sono circa dai 4 agli 8.000 euro, che comprendono anche le spese di trasporto andata e ritorno e il soggiorno in Giappone. La scadenza per candidarsi è il 31 marzo. Per tutte le informazioni, www.scambieuropei.info. Il testimone. Il testimone della settimana è un associate director 38enne presso una delle maggiori società di revisione mondiali. Filippo vive e lavora in Australia, ma alle spalle ha esperienze professionali tra Austria e Lussemburgo. Oggi è qui a spiegarvi come fare per costruirvi un futuro agli antipodi. Buon pomeriggio, Filippo Miotto. Ciao Sergio. Laurea in economia e commercio, poi un lavoro nella consulenza a Torino, prima di avviare un master in diritto tributario internazionale a Vienna. Quali vantaggi, ti chiedo subito Filippo, porta un master all'estero? Dunque, io direi che i vantaggi sostanzialmente si possono riassumere in tre categorie. Una prima categoria è sicuramente arricchire il proprio bagaglio di conoscenze tecniche della materia. Una seconda categoria è sviluppare un network internazionale di conoscenze e di contatti a livello di persone. E un'ultima categoria, che è sicuramente anche molto importante, è un master all'estero può dare l'opportunità di accedere al mercato estero o al mercato del paese in cui si svolge il master. A quel punto comincia la tua carriera internazionale trasferendoti in Lussemburgo. Come hai trovato lavoro nel piccolo Granducato? Direi che è stato molto semplice. Ho applicato sul sito di PricewaterhouseCoopers nella sezione carriere, ho fatto il colloquio è andato bene e sono stato selezionato. Vale la pena fare un'esperienza in Lussemburgo per farsi le ossa? Assolutamente sì. Il Lussemburgo è riconosciuto a livello internazionale, ha un'ottima esposizione a transazioni internazionali, dà l'opportunità di perfezionare le lingue, perché diverse lingue sono parlate in Lussemburgo, e anche da un punto di vista economico può dare notevoli soddisfazioni. E dopo qualche anno la decisione di tornare in Italia, dove ti abiliti come dottore commercialista, riprendi a lavorare nella penisola, poi cambi nuovamente idea, cerchi lavoro all'estero, ancora una tappa a Lussemburgo e poi espatri in Australia. Come sei approdato agli antipodi e soprattutto di cosa ti occupi ora? È capitata questa opportunità di andare in Australia e tramite un cacciatore di teste sono riuscito a ricollocarmi in Australia. Mi occupo sempre di fiscalità internazionale, in particolare di transfer pricing, che è una disciplina particolare, una nicchia che fa parte della fiscalità internazionale. Arriviamo ai tuoi consigli su come approdare in Australia, Filippo. Il primo grosso problema è il visto. Quali sono in sintesi le tipologie di visti più interessanti nell'ottica di un espatrio e quanto costano soprattutto? Allora, l'Australia è molto complessa dal punto di vista delle leggi di immigrazione, quindi esistono un numero infinito di visti, i visti generalmente hanno un costo significativo, anche diverse migliaia di euro, spesso è richiesto l'appoggio ad un avvocato per espletare tutte le pratiche. A seconda del lavoro che si cerca bisogna capire quale visto potrebbe essere appropriato per trovare lavoro. Però occorre conoscere bene l'inglese, immagino. Assolutamente sì, l'inglese è fondamentale e a seconda del visto può essere richiesto un livello di inglese più alto o meno alto. E può aiutare aver studiato magari con una laurea o un master in Australia, anziché arrivare diciamo da zero? Certamente. assolutamente sì, come dicevo prima, un master nel paese in cui si vuole approdare è decisamente un aiuto. Bisogna considerare però che i master all'estero sono molto costosi e in particolare studiare in Australia è particolarmente costoso. Questo è importante sapere. In considerazione. Consigli anche di ottenere il visto prima di cercare lavoro, questo segniamocelo. E concentrandoci proprio sulla ricerca di lavoro, che tipo di aziende consigli di approcciare in Australia? Sì, assolutamente, richiedere il visto prima è un vantaggio perché il datore di lavoro, se il candidato ha già il visto, lo riconosce come un vantaggio. Le vie sono infinite, nel senso si può affidare a cacciatori di teste, si può applicare direttamente a società internazionali, ma anche a società locali perché potrebbero richiedere per qualche motivo un profilo europeo e quindi potrebbero voler sponsorizzare il candidato. Tu hai dei siti da consigliare per cercare lavoro in Australia? Ci sono siti attendibili, affidabili? Sì, esiste un sito che si chiama sic.com.au che è particolarmente utilizzato nel mio settore, nel settore accounting and finance. E al di là del tuo settore specifico, Filippo, quali altri settori professionali possono essere attrattivi per giovani italiani qualificati in Australia? Quali vedi più dinamici, diciamo? È sempre un discorso legato al visto, perché il visto può anche essere offerto dai diversi stati australiani e diversi stati australiani possono richiedere specifiche professioni. Quindi si va dal medico, dall'ingegnere, dall'insegnante, quindi bisogna fare riferimento, diciamo, allo stato in cui si vuole approdare. Come vediamo è tutto abbastanza complicato, speriamo solo che Brexit non porti effettivamente a un sistema di immigrazione come quello australiano, perché come ci stai raccontando non è semplice, Filippo. Arriviamo alla vita in Australia, trovare casa a Melbourne è complicato, come funziona il sistema degli affitti? È sicuramente diverso dal sistema italiano, è gestito dalle real estate agency, è molto competitivo, quindi bisogna essere molto veloci quando si vede una casa che piace, perché si può competere con 10-15 persone per la stessa casa. Ho anche visto situazioni in cui l'application per la casa era stata fatta prima ancora di vedere la casa, quindi non è semplice e ci va un attimo di tempo per capire come funziona e riuscire a rendere il processo efficiente. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. In onda ogni domenica dopo il GR delle 8 e i dettagli nella versione podcast su radio24.it. Queste canzoni. Torna Come nasce una canzone. Questa volta andiamo alla scoperta dei grandi classici della musica italiana, con gli autori, i compositori, gli arrangiatori, i produttori, insieme a me, Marta Cagnola, ogni mercoledì una nuova puntata, in esclusiva, in podcast, sul sito e sulla app di Radio 24. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, al programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Filippo Miotto, 38enne associate director presso un'importante società di revisione internazionale a Melbourne in Australia. Filippo vi è approdato dopo esperienze formative in Austria e di lavoro in Lussemburgo, esperienze che hanno costituito il prologo al salto verso le antipodi. Perché perdersi i suoi preziosi consigli su come svoltare e cambiare radicalmente vita e lavoro? Riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. Costo della vita in Australia e tasse, come sono competitivi? Il costo direi può essere paragonato a una città europea come Milano. Direi che non arriva ai livelli di Londra o Parigi, A livello fiscale la tassazione australiana non è una tassazione particolarmente favorevole o privilegiata, però è anche importante dire che l'Australia offre molti servizi, quindi diciamo che si pagano più volentieri le tasse. Ci raggiunge ora in linea Stefano Corso, senior manager presso una multinazionale della consulenza a Londra. Buon pomeriggio, Stefano. Ciao Sergio, buon pomeriggio. Tu hai 35 anni, da due vivi a Londra, dopo anche tu 3 anni in Lussemburgo, e anche tu, Stefano, sei laureato in economia. Di cosa ti occupi in Gran Bretagna? In breve mi occupo di transazioni di M&A, quindi fondamentalmente assisto dal punto di vista fiscale società e fondi di investimento che intendo acquisire o vendere altre società, fondersi o quotarsi. Le mie attività sono principalmente la strutturazione dell'operazione, quindi per esempio determinazione della migliore struttura societaria per eseguire l'operazione o la due diligence. Allora, per cominciare, tu consigli di partire con un programma Erasmus per avviare la propria internazionalizzazione. Perché è così fondamentale ormai? Ma principalmente perché prima si inizia e meglio è perché io personalmente non l'ho fatto e poi me ne sono un po' pentito. Il discorso è che se si è interessati ad un'esperienza internazionale è molto meglio iniziare con un Erasmus, che è probabilmente più facile, più economico e più protetto che un'esperienza lavorativa. Quindi sicuramente può dare gli stessi vantaggi ma in un contesto più rilassato, dove si può imparare senza avere le pressioni dell'ambiente lavorativo. Pone anche un tema interessante in materia di lavoro nel settore fiscale, e anche Filippo penso sia d'accordo, cioè lo scarso valore delle certificazioni professionali italiane all'estero. Come ovviare? Il problema è che le certificazioni italiane, per quanto tecnicamente molto valide, sono normalmente poco riconosciute o completamente sconosciute all'estero. Quindi se si ha l'intenzione di ottenere una certificazione è probabilmente molto meglio optare per un master all'estero, ci si possa permetterlo, piuttosto un SCCA. Il problema secondo me è ottenere una certificazione che sia facilmente rivendibile, che abbia un valore commerciale all'estero, e le certificazioni come dottore commercialista o revisore contabile normalmente non lo hanno. Ti faccio un'ultima domanda, Stefano, e riprendiamo un tema che abbiamo trattato poco fa, e cioè l'immigrazione. Arriverà Brexit, non avrà effetti immediati quest'anno ma potrebbe averli il prossimo. Come vedi le opportunità lavorative nel tuo settore in Gran Bretagna dopo Brexit? Allora, come giustamente hai detto, Brexit di fatto non è ancora successa e le negoziazioni sulle future relazioni commerciali tra UK e EU prenderanno probabilmente anni. Quindi nel lungo periodo è onestamente difficile prevedere cosa succederà e quali opportunità cresceranno o spariranno. Detto questo, ad oggi Londra è ancora un centro finanziario, è il centro finanziario europeo, e non esiste una città europea che possa competere in termini di skills, diversità, esperienza in transazioni internazionali e lingua ovviamente. Quindi secondo me nel breve e anche nel medio periodo rimane comunque una città interessante dove costruire il proprio profilo, fare esperienza e poi se, insomma, dipende da come poi le cose andranno, ma se dovessero non andare bene, sicuramente da questa città sarà possibile spostarsi da qualche altra parte. Grazie a Stefano Corso, in bocca al lupo. E abbiamo la nostra domanda di rito per Filippo Miotto. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Imparare l'inglese. L'inglese deve essere come l'italiano. La lingua è la prima barriera in qualunque tipo di comunicazione. Quindi assolutamente avere un livello di inglese vicino all'italiano per me è fondamentale. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna oggi a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci. Eccoci e ben ritrovati. Dedichiamo questo nostro primo appuntamento del nuovo anno ad un'analisi molto interessante sulla soddisfazione generale dei dipendenti nelle aziende, per poi atterrare sulle professioni più redditizie ricercate del momento a livello worldwide. Per fare ciò integriamo i nostri dati con quelli di Glassdoor, il più noto portale web al mondo nel quale gli impiegati anonimamente recensiscono le proprie aziende di loro superiori. Oggi il sito raccoglie le testimonianze di decine di milioni di utenti registrati da 190 paesi, incluso un terzo di tutti tutte le società Fortune 500, che rappresenta la lista annuale compilata e pubblicata dalla rivista Fortune sulla classifica delle 500 maggiori imprese societarie statunitensi misurate sulla base del loro fatturato. È indubbiamente l'opportunità di carriera il fattore determinante affinché un dipendente si affezioni all'azienda per cui lavora. Andiamo allora a vedere l'elenco dei 10 principali posti di lavoro che al mondo, con particolare focus negli Stati Uniti, offrono le migliori opportunità di carriera. I mestieri elencati sono classificati combinando le informazioni relative allo stipendio base medio, al numero di opportunità di lavoro presenti al momento e pubblicati in rete nei siti istituzionali delle aziende e dal grado di opportunità di carriera che garantiscono. Diciamo subito che al primo posto abbiamo che il mestiere più pagato risulta essere quello del responsabile della strategia, con uno stipendio medio annuo che supera i 150.000 euro, mentre risulta il più ricercato lo sviluppatore in ambito IT, il cui lavoro a livello worldwide è richiesto per ben più quasi 10.000 posizioni aperte al momento. Ma andiamo a scorrere altre posizioni altrettanto appetibili, sempre con lo stesso criterio. Responsabile marketing, abbiamo 8.194 posti di lavoro vacanze aperte al momento, con uno stipendio base di circa $85.000. Continuiamo con responsabile dello sviluppo aziendale, anche qui abbiamo quasi 7.000 posti di lavoro disponibili, uno stipendio base sempre intorno agli $80.000. Schizziamo a $110.000 per i data scientist, con ben 6.789 posti di lavoro aperti nel mondo. Continuiamo con responsabile dell'audit, responsabile risorse umane, responsabile della strategia, già detti, qui abbiamo intorno alle 4.000 vacanze aperte. Per chiudere questa rassegna con i design del prodotto, che hanno una valutazione di stipendio sopra 100.000 con 2.000 posti aperti, e il responsabile fiscale, quindi in ambito anche amministrativo, con 4.800 posizioni aperte nel mondo per uno stipendio base di $112.000 annui. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna Imprenditori Globali, lo spazio mensile di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. E torna con noi anche Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta in Portogallo, sentiamo. Il Portogallo figura al 62° posto nella classifica della libertà economica dell'Heritage Institute, quindi è molto vicino all'Italia, con un grado di libertà medio-basso. Ed infatti, nell'immaginario di molti, il Portogallo è un paese con una burocrazia latina e un fisco aggressivo. Ma allora, cosa rende il Portogallo una meta attraente per l'imprenditore globale italiano? Questo paese sta dando una svolta. Il Portogallo fa parte dell'Unione Europea e dell'area Schengen e presenta un ambiente sociopolitico molto stabile. Dal 2009 ha introdotto uno schema di residenza ormai famoso nelle cerche dei prossimi espatriati che cercano condizioni favorevoli per trasferire il proprio business e la propria vita. Si tratta dello schema chiamato residenza non abituale, che offre un vantaggio principale. Si tratta di un livello di tassazione flat al 20% che dura per 10 anni, con la possibilità, in date condizioni specifiche, di avere esenzioni sui redditi conseguiti all'estero. Accedere allo schema è semplice. È necessario che la propria attività rientri tra quelle elencate nella lunga lista che accompagna il provvedimento e che non si abbia avuto la residenza in Portogallo nei 5 anni precedenti. I cittadini europei ed italiani hanno diritto di trasferirsi, registrarsi e accedere così al beneficio. Il Portogallo è inoltre uno dei pochi paesi al mondo che consente di avere e conservare la residenza fiscale con un requisito di permanenza ridotto, anche solo di 60 giorni, quando normalmente gli altri paesi del mondo impongono soggiorni di almeno 183 giorni. Il Portogallo è un paese europeo, vicino all'Italia, con tradizione e una cultura simile alla nostra, con un clima e un costo della vita molto buoni. Per imprenditori tradizionali che svolgono attività legate al territorio si presentano opportunità ampie nei servizi. Il paese infatti cresce molto più rapidamente dell'Italia. Per chi poi ha attività di impresa digitale, invece, le opportunità sono ancora più ampie e totalmente slegate dal territorio. E avendo base in Portogallo, con lo schema di residente non abituale, si accede alla tassazione favorevole del 20%. In conclusione, il Portogallo è una soluzione senza rischi che offre vantaggi che possono fare la differenza per il successo della vostra impresa. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate infine di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta.